Iniziamo con quello che è successo a Roma questo fine settimana. Partiamo dal comunicato e poi appunto proviamo a metterci in contatto con chi adesso sta lì e ci racconta un po' anche com'è andata e come sta andando e cosa stanno per organizzare. Comunicato delle Cagne Sciolte. Roma, occupazione di domenica 15 dicembre. Abbiamo liberato uno spazio in Viale Ostiense 137. Vogliamo farne un punto di riferimento e di incontro per le donne. Abbiamo avviato questa esperienza in questo territorio perché non ci sono luoghi in cui riprenderci il nostro tempo, incontrarci con le altre e riconoscerci riscoprendo le nostre potenzialità. Quelli che invece ci sono nelle città sono troppo pochi o lontani. Uno dei primi progetti che vogliamo avviare sarà uno spazio di accoglienza per le donne che hanno subito o subiscono violenza, riservando un luogo protetto per le situazioni concrete e personali, dove sarà possibile avere colloqui con operatrici e avvocate, dove si possano trovare tempi e modalità per rielaborare e liberare le proprie vite da ricatti e sensi di colpa. Ognuna può uscire dall'isolamento e dal senso di impotenza in cui vogliono rinchiuderci attraverso la paura e la diffidenza, i falsi miti sull'individualismo e l'arrivismo. Non vogliamo essere remissive, siamo battagliere. Il nostro sogno è vivere felici e vorremmo iniziare da qui. Lottiamo contro la violenza sulle donne, ma non ci interessa farlo con la retorica della donna buona e onesta che non si tocca neanche con un fiore. Pensiamo piuttosto che la violenza si inizi a sradicare ogni volta che una donna non vuole stare alla dipendenza di qualcuno, servile e indifesa, in casa o al lavoro. Ma per farne una cultura dobbiamo esserne coscienti tutte. In questo progetto ci mettiamo tutta la voglia e il coraggio di iniziare da capo e imboccare strade inesplorate, convinte di trovare altre sorelle lungo il cammino, perché sentire la solidarietà e la presenza delle altre è sempre qualcosa che cambia le prospettive e apre possibilità che prima neanche si vedevano. Insieme si moltiplicano le forze. Quello che ci sarà è innanzitutto quello che vorrei condividere e contribuire a creare. Sarà uno spazio in cui venire a prendere fiato da una vita che ti soffoca, a comunicare con le altre, in cui proporre e costruire tutti i progetti che desideri. Uno spazio in cui confrontarsi su quello che succede intorno e ciò che vorremmo cambiare, in cui sperimentare pratiche per agire, dove trovare una situazione di mutuo aiuto per tutti i problemi che ci rendono la vita una faticata anziché una ficata. Noi ci mettiamo all'inizio, il seguito lo determina chi vorrà esserci e sostenerci, consapevoli che cerchiamo di abbattere un sistema che disprezziamo, fondato sullo sfruttamento e la sopraffazione. Il nostro non sarà un luogo per accumulare denaro, né per avere riconoscimenti sociali, né per farsi forza con le debolezze delle altre. Non ci interessano i contentini e le pacche sulle spalle, e neanche sul culo. Nessuna sarà libera finché non lo saranno tutte le altre. E questo era il comunicato che le Cagne Sciolte hanno mandato in giro dopo l'occupazione di domenica mattina. L'occupazione si trova a via Ostiense 137, diciamolo così, chi vuole anche andare a vederla a dare manforte e quant'altro può farlo. Adesso noi ci sentiamo una canzone e proviamo a metterci appunto in contatto con loro, che oggi avevano anche un'iniziativa, quindi stanno lì. Gente può fare milioni di chilometri per potersi incontrare, per guardarsi negli occhi e spiegare un errore, per un gesto che forse sarà l'unico che potremo ricordare. Io credo nei miracoli che la mente può fare, milioni di chilometri senza doversi spostare, per creare una storia che prima non c'era, ed una nuova invenzione, quella che salverà l'umanità intera. E noi crediamo nei miracoli, era Cristina Donà, e siamo in contatto con le compagne. Ciao, ci sentite? Buonasera a tutti e a tutte. Intanto, che si dice in questi casi? Complimenti, grandi, brave e quant'altro. Un po' di grazie anche, perché ne avevamo bisogno di uno spazio occupato di donne a Roma. Sappiamo che i luoghi delle donne sono sempre di meno, sempre più piccoli, e quindi aver liberato uno spazio, io l'ho visto, molto bello, molto grande, molto particolare, con una storia molto particolare, spero tu ci racconterai, così la raccontiamo anche alle ascoltatrici che ci sentono. Sì, allora, noi tutto sabato mattina siamo entrate con un gruppo di donne qui nel 137, uno stabile pubblico che negli ultimi anni è stato dato a dei privati e è chiuso da ormai 2 anni, e abbiamo deciso appunto di pensare questo quartiere in cui portare anche un discorso nuovo, sia un luogo di incontro e di confronto per le donne, ma appunto dove potevamo affrontare il tema della violenza su più fronti. Uno di infatti uno dei progetti che ci sarà qui dentro sarà uno sportello antiviolenza per le donne, che accoglierà sia appunto che accoglierà le donne, ma che poi farà uscire anche questa tematica, anche perché come sappiamo bene, negli ultimi anni il tema della violenza sulle donne viene usato, non ultimo l'ultima legge sul femminicidio, per andare ad alimentare un clima di repressione nei confronti dei migranti e delle fasce più deboli. Quindi quello che ci interessava a noi era lavorare proprio su questi fronti, intanto, come hai già detto tu, insomma, creare un altro spazio, insomma, che ce ne sono alcuni a Roma, però negli ultimi anni effettivamente un posto così non mancava, no? E quindi sentiamo anche questa esigenza, e dall'altra sentivamo proprio il bisogno di affrontare determinate tematiche partendo dalle nostre vite e partendo da un posto nostro che ovviamente vuole essere attraversato da tutte le compagne e i compagni. Infatti stiamo organizzando le iniziative ogni giorno, sia assemblee pubbliche che di proiezioni, che appunto per cercare questa relazione sia con il territorio, che ci accolte molto bene, devo dire, e che anche da appunto le compagne e le compagne a livello cittadino, proprio per creare questa rete che per noi è fondamentale, insomma. Sì, allora, infatti stavo guardando un po' sul vostro blog, diciamolo anche, c'è questo riferimento dove chiunque voglia non solo venirvi a trovare, magari sapere anche che sta succedendo, che state facendo, che è cagnesciolte.noblogs.org. Vedevo che subito vi siete organizzate, insomma, già da lunedì avete cominciato con una proiezione, stasera c'è qualcosa, domani, insomma, quindi evidentemente siete già ben organizzate, insomma, visto che è uno spazio occupato da pochissimo. Stavo guardando anche diversi comunicati di solidarietà da altri gruppi di donne, insomma, che chiaramente sono molto contente di questa occupazione, che mi sembra anche un progetto molto creativo, nel senso c'è uno spazio per sostenere, per accogliere le donne vittime di violenza, ma c'è anche, insomma, tanta voglia di fare tante cose. Sì, comunque appunto, come dicevo prima, dare una risposta, diciamo, più immediata, che può sembrare più immediata come lo sportello, però c'è anche tanto altro, nel senso che ovviamente c'è la voglia di mettere in discussione delle determinate tematiche, dibattito, parlare con la gente, probabilmente se, come diciamo, no, per noi da un percorso femminista, anche dire che la violenza è nella cultura è un discorso, no, che abbiamo fatto tante volte, ma questa cultura che vogliamo sradicare, come la sradichiamo? Uno dei modi è questo, provare a fare iniziative, a stare nei territori, a parlare con la gente, perché poi fondamentalmente è questo. Noi ci troviamo qui a Divertente, in cui c'è un'università, appunto ci sono gli uffici, e comunque anche oggi siamo stati tutta la mattina col banchetto davanti a Divertente, abbiamo dato volantini, abbiamo parlato con le donne che sono entrate, hanno visto il posto, ci hanno chiesto, insomma, questo. Noi assolutamente vogliamo esserci e vogliamo appunto anche portare dei discorsi differenti. Poi invece, per quanto riguarda i comunicati, insomma, di solidarietà che ci sono arrivati, siamo molto felici, ringraziamo, insomma, tutti i compagni e compagne che ce l'hanno mandati, che hanno appunto pensato di darci la loro solidarietà in questa maniera, come ringraziamo insomma le compagne e i compagni che sono passati, che ci vengono a fare i picchetti, insomma questo è molto molto importante, perché poi la solidarietà concreta ci dà forza anche a noi e sicuramente farà crescere questo percorso. Quindi appunto vi invito di nuovo, oggi ci sarà una lezione aperta di pole dance, un aperitivo e poi insomma di passare proprio perché a noi ci serve e vogliamo anche capire effettivamente come poter scardinare determinati discorsi e questo insomma vogliamo appunto creare questo spazio e ce l'abbiamo appunto, uno spazio che ricordo si pubblico dato in gestione a un locale appunto di lap dance quindi chiuso dopo nel 2008 e ancora no, ci sono dei buchi rispetto a questo posto, non si riesce a capire effettivamente come è stato dato insomma i soliti problemi ci sono dietro al patrimonio pubblico, che non si capisce bene no, a un certo punto che cosa succede, chi è che chi era il privato che l'ha preso in gestione, che cosa ci ha fatto, insomma tutte queste cose sono importanti, nel senso che poi è importante anche capire effettivamente parlare anche dei posti vuoti che ci sono a Roma, che sono tantissimi, e che discorsi ci potremmo fare dietro, che siano già della cultura del profitto, insomma che si della cementificazione, della speculazione che si stanno mangiando sempre più in Roma. Quindi ovviamente è un discorso differente magari a quello dell'abitare, però sostanzialmente che parte dai stessi presupposti, quello di prendere un posto, ridarlo alle persone insomma che abitano questo quadrante e soprattutto appunto toglierlo alla speculazione per farlo riviverle con altri contenuti, insomma un po' questo. Quindi non ci resta intanto con voi di darci appuntamento sia per le vostre iniziative, visto che insomma siamo lietissime di raccontarle, insomma di invitare le altre a partecipare, quindi insomma, e sia per avere notizie dell'occupazione in sé, che è sempre un'occupazione, quindi è sempre una cosa sulla quale ci dobbiamo aiutare l'un l'altra. Quindi insomma via Le Ossienze 137, e diamo appuntamento anche col vostro blog cagnesciolte.noblogs.org, e intanto vi ringraziamo e buona occupazione. Sì, grazie a tutti e tutte, insomma vi aspettiamo. Certo, passeremo e sì, buona lotta e buone iniziative. Ciao. Grazie, ciao a tutti.